La lingua batte. Buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti anche nel 2014 alla Lingua Batte, il programma di Radio 3 Tutto dedicato alla lingua italiana. Oggi, nel nostro sabato del linguaggio, si parla di greco. O meglio di grecismi, vale a dire dell'apporto della lingua greca, il greco antico soprattutto, all'italiano che parliamo e scriviamo. Un apporto che riguarda anche chi il greco non l'ha mai studiato e non è neanche in grado di decodificarne l'alfabeto. Grecum est non legitur, e greco non si legge. Era questa la frase che i copisti medievali annotavano nei loro testi quando, trascrivendo, incontravano parole in greco. Lingua e alfabeto che all'epoca conoscevano in pochi. Qualche volta invece provavano a copiarle e spesso sbagliavano. Accade così che da un acme, punta, apice, italiano acme, scritto in un trattato di medicina del VI secolo d.C., venne fuori un acne, diventato poi acne in una traduzione latina cinquecentesca e di lì passato in molte lingue europee. Italiano acne, ovvero quando una cima partorisce un foruncolo. E mar psamen. Ripeti. E mar psa? No. Silenzio. State un po' zitti voi altri. Coraggio, ripeti. Professore, può essere così gentile? Dimmi, caro, che vuoi? Scusi, me lo potrebbe fare sentire? Certo, certo, certo. Guardi. E mar psamen. Fai attenzione alla lingua. Deve battere qui contro il palato, così. E poi cacciala fuori. E mar psamen. Coraggio. E mar psa? Silenzio. Dunque, coraggio su. E mar psa? Ha sentito? È difficile il greco. Non tornerò mai più sulle orme, me le ricordo già bene così. Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Pietro Ianni ha insegnato letteratura greca nell'Università di Lecce, di Urbino e di Macerata. Noi della Lingua Batte lo abbiamo invitato perché ormai un po' di tempo fa, la prima edizione è del 1986, la seconda del 94, ha scritto, per i tipi di La Terza, un libretto delizioso intitolato Il nostro greco quotidiano. Ecco, Pietro Ianni, nella versione digitale del grande dizionario italiano dell'uso di Tullio De Mauro si scopre che quasi il 2% delle parole italiane ha un etimo greco e di queste ben 34 appartengono a quelle parole che il dizionario di De Mauro considera del lessico fondamentale, di alto uso e di alta disponibilità, insomma alle parole che di solito usiamo tutti i giorni. La domanda è: quali sono i grecismi, per dir così, più quotidiani del nostro greco quotidiano? Bisogna distinguere molto bene in una vasta casistica. Una primissima divisione, così a grandi tratti, può essere quella tra parole greche accolte dai romani quando il greco, che noi chiamiamo antico, in quella fase del greco, era ancora una lingua parlata e con cui si veniva in contatto vivente. Una cosa molto diversa, all'estremo opposto, perché in mezzo c'è una vasta gamma, sono le parole greche introdotte in italiano, come in tutte le lingue europee, in età moderna e per così dire a tavolino, parole adottate per i bisogni delle terminologie speciali, scientifiche e tecniche, come tutti sappiamo. Soprattutto l'età moderna è l'epoca delle coniazioni, insisto su questa parola, coniazioni fatte con materiale greco, composti, formati spesso in maniera arbitraria, non sempre in regola col greco vero, diciamo, e comunque con risultati che sarebbero del tutto ignoti e incomprensibili a un greco antico se potesse risuscitare. È quello che è stato chiamato il famoso lessico greco ignoto ai greci. Ci sono grecismi che avvertiamo subito come tali, il normale parlante italiano li avverte come esotismi. Viceversa ci sono non pochi grecismi che usiamo magari quotidianamente e che avvertiamo come parole perfettamente italiane. Per immagine possiamo dire che sono come immigrati di seconda o terza generazione perfettamente assimilati e che mai chiameremmo stranieri. Chi mai avverte come straniere, appunto greche, parole tipo, pesco a caso fra un gran numero, grotta o bagno, niente meno, bagno. Bagno è una parola di lampante origine greca e di uso davvero quotidiano, se vogliamo usare questa parola, perché bagno è dal latino balneum, che a sua volta palesemente discende dal greco balaneion, quindi bagno è un grecismo. Ma il grecismo non si può paragonare un grecismo di questa sorta, che so io, a epistemologia. Lei citava il ruolo così importante del latino, che in effetti è stato per secoli il principale tramite dei grecismi per l'italiano e non solo per l'italiano. Attraverso il latino, ad esempio, sono passati tutti quei grecismi che poi sono stati diffusi dal cristianesimo, Pietro Ianni. Sì, il lessico cristiano, quello di base, quello più comune, è formato per lo più da grecismi passati per bocca popolare, per la bocca degli incolti, come si vede dalla loro forma, che spesso è notevolmente alterata rispetto all'originale. Ma ci sono anche termini arrivati per via colta, adotta, e quindi sono rimasti, si sono conservati meglio e hanno dato luogo qualche volta a quelli che i linguisti chiamano allomorfi, cioè da una parola greca ne sono venute due italiane, una per i piani alti, per così dire, una per i piani bassi. A proposito di doppi esiti, uno notissimo è quello di Epifaneia, il greco Epifaneia, cioè apparizione, poi nel senso cristiano specializzato, apparizione di Dio, che da una parte ha dato Epifania, il nome ufficiale della festa, e ha dato luogo dall'altra parte alla popolare Befana. E qui è interessante perché Epifania è lo sviluppo puramente latino, con l'accento che si è spostato sulla penultima sillaba, insomma. Invece Befana conserva l'accentazione greca, questo è molto interessante, vuol dire che è passato veramente per via orale, passando proprio per quegli strati popolari che erano, sono stati la prima culla del cristianesimo. No? C'è il latino, ma non soltanto il latino. Leopardi, in una pagina del suo Zibaldone, era il 1821, chiamava alcune parole condivise dal lessico intellettuale, diciamo occidentale, europeismi. E diceva che queste parole avevano un uso che deriva dalla stessa civiltà, dalla scienza stessa d'Europa. Di questi esempi, molti derivano proprio dal greco, dispotismo, analisi, analizzare, demagogo, però attraverso il francese. Ecco, quanto è importante, Ianni, questa mediazione del francese nel passaggio dei grecismi dal greco antico alle lingue moderne come l'italiano? Naturalmente ha la sua importanza, perché il francese è stato per un paio di secoli, diciamo, grosso modo, l'esperanto, la lingua franca di tutti quelli che in Europa contavano qualche cosa, per cultura o per posizione sociale. E la cultura francese moderna non è stata seconda a nessuno nell'adottare o coniare grecismi. Il grecheggiare dei medici, naturalmente partendo dai suoi connazionali, fu satireggiato già da Molière nel Malato immaginario, che facendo dire a un suo personaggio che purtroppo l'abilità dei medici di chiamare tutte le malattie con un nome greco non è pari alla loro abilità nel guarirle. Dal francese ci vengono grecismi a volte perfino un po' goffi, un po' caricaturali, che sono stati criticati, come per esempio ippofagia, per dire consumo di carne equina, o addirittura, questo è il più buffo, come insegna di macelleria equina, oppure una parola che oggi non so quanto più sia frequentata, ma lo è stata, melomane, nel senso di appassionato di teatro, in musica, di opera. No? A Radio 3 è molto frequentata, Pietro Ianni. Ah, benissimo, sì, qui è un'isola in cui si è salvata la parola. Tutto questo naturalmente è acqua passata, è da quando il francese ha perduto la sua posizione di lingua dominante nella cultura internazionale, come ha fatto rapidamente nel corso del secolo, del XX secolo, soprattutto nella sua seconda metà. Resta una lingua naturalmente culturalmente importantissima, ma ha finito di irradiare, diciamo. Un'ultima domanda, Pietro Ianni. C'è qualche grecismo recente che le è capitato di sentire proprio negli ultimi tempi? Qualche altra parola nuova ricavata da questa lingua così antica come il greco? Ma un neologismo grecheggiante, diciamo così, che merita qualche attenzione è omofobo col relativo astratto omofobia, no? Una parola che ha avuto il suo momento di attualità. Contiene l'elemento fobo, posposto, no? Che nel greco vero significava paura, mentre nelle formazioni odierne, moltissime, è stato impiegato sempre nel senso di avversione, odio. Se fossimo più fedeli al greco vero, avevamo l'elemento bell'e pronto, perfettamente appropriato, che è miso. L'odio in greco è misos. Questo elemento miso, invece, vive solo lessicalmente, non è produttivo, si dice, e vive in alcune parole che ci verranno subito in mente, sono misantropo, misogino, e non so, e qualcun altro ci sarà, ma insomma. E omofobo, però, è indecifrabile anche per un grecista, perché questo homo potrebbe essere tante altre cose. È un caso di compendio questo, perché cioè dal composto, che il composto da cui si parte evidentemente è omosessuale, da cui abbiamo preso solo un elemento per non appesantire troppo il nuovo composto, bisogna rassegnarsi al fatto che ormai il greco serve così a pezzi, presi così un po' a caso, messi insieme, noi ci capiamo, questo è l'importante. Si dice Microsoft, perché micro è una parola greca, viene dal greco mikros, che vuol dire piccolo, vuol dire minuscolo. Gli americani mi debbono fare il piacere di pronunziare le parole secondo come queste parole sono nate. Altrimenti, se loro vogliono pronunciare le mie parole a modo loro, allora sai cosa faccio io? Allora io non dico più Shakespeare, allora io dico sa che speare. Ma ci passo attraverso. Il messaggio di questa settimana è un dizionario. È stato pubblicato dalla Zanichelli e si intitola Greco antico, neogreco e italiano, dizionario dei prestiti e dei parallelismi. Gli autori sono Massimo Peri e Amalia Coloni. A parlarcene è oggi qui proprio Massimo Peri, che insegna lingua e letteratura neogreca all'Università di Padova ed è socio, tra l'altro, dell'Accademia Galileiana di Padova, dell'Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici e dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Bisogna premettere che non è affatto facile distinguere in modo lineare fra greco antico e il cosiddetto greco moderno. Sarebbe più chiaro non dire moderno, ma parlato. Un parlato che esiste già dal V-VI secolo a.C., quindi che non è moderno. Possiamo dire a grandissime linee che il greco moderno privilegia il contatto linguistico orale che ha luogo laddove lo scambio demografico è più forte, in Italia meridionale e Sicilia da una parte, a Venezia nella sua zona di influenza dall'altra. Il greco antico invece penetra in italiano soprattutto attraverso la letteratura scritta. Distinguere fra greco antico e moderno è impresa spesso disperata. Per esempio, bottega, la parola italiana bottega, attraverso l'intermediazione del latino apotheca, viene dal greco apothiki. Ma in che misura e in che senso possiamo definire antico il termine apothiki, visto che esso, o apotheke, con la pronuncia erasmiana, visto che esso è usato ininterrottamente in età antica, medievale e moderna. Per quanto riguarda i periodi in cui sono entrati in italiano i grecismi, il maggior numero di grecismi, la cronologia dipende in realtà dalle vicende storiche. In Italia meridionale e in Sicilia, in particolare nella fascia che coincide con l'antica Magna Grecia, la presenza greca è radicata fin dal VI secolo d.C. in poi, formalmente fin dall'istituzione dell'esarcato. fino poi all'invasione normanna nell'undicesimo secolo. Troviamo per esempio in Salento Calimera, Gallipoli dal greco antico Callipolis, città bella, Leuca dal greco medievale Talesca, terre bianche, che a sua volta viene dal greco antico Leukos, bianco. Troviamo ancora in Salento Limini, da Limni, lago, palude. In Calabria troviamo Dasa, greco antico Dasos, Gerace, che è la deformazione del greco Kyriaki, Santa Domenica, Agia Kyriaki, Petrace, viene dal greco medievale Petrakin, piccola pietra, che è il diminutivo del greco antico Petra, Policastro, Paleocastron, cioè Castelvecchio, Riace, da Riachi, Ruscello e così via. Addirittura in Sicilia troviamo il nome italo-greco Lingua Glossa, un paesino alle coste dell'Etna il cui nome deriva dalla lingua, cioè dalla glossa di lava che arriva fino al paese. Soprattutto nelle campagne probabilmente i grecofoni non erano minoranza, ma erano maggioranza, almeno fino all'arrivo dei normanni, quando comincia il lento processo della loro latinizzazione. A Venezia, che è il maggiore centro di diffusione del greco in Europa, a partire dall'alto medioevo fino a tutto il Settecento, diciamo fino al Trattato di Campo Formio, i prestiti dal greco sono circa 300, segno che, nonostante i rapporti privilegiati di Venezia con la Grecia, non si è avuta una presenza greca diffusa e stabile. Però c'è da dire che a Venezia l'interscambio linguistico è più dinamico di quanto avviene in Italia meridionale, perché non solo si importa, ma soprattutto si esporta. Il grosso degli italianismi che penetrano in Grecia passano attraverso Venezia, al punto che talora i grecismi in Italia tornano in Grecia come italianismi. Per esempio, ed è solo un esempio, gondola viene da condura, dal greco medievale condura, condiura, coda corta vuol dire, però poi dopo torna come gondola in Grecia. Abbiamo appunto il termine gondola. Per quanto riguarda le sfere lessicali più comuni nell'importazione dal greco in italiano, diciamo che il greco che passa in italiano riguarda soprattutto la sfera semantica del mare, l'abbigliamento, le professioni, il gioco. C'è anche però da dire che l'importazione lessicale è ricca nell'italiano dialettale, in quello regionale, ma è meno ricca nello standard. Nel titolo compare questa parola, parallelismi. Volevamo indicare con questa parola i prestiti greci e italiani provenienti dalla stessa fonte, per esempio dal turco, dal francese, dall'inglese, soprattutto dal latino. Noi abbiamo una serie piuttosto vasta, forse più di un migliaio di parole che sono usate sia in greco che in italiano e che vengono dal latino, e per cui per esempio spiti, casa, equivale all'italiano ospizio, e vengono ambe due dal latino hospitium, ospitium, tavola, tavola dal latino tabula, securi, scure dal latino securis, vigla, veglia dal latino vigilia, savura, zavorra dal latino suburra, e così via, insomma, fino, che ne so, a spanachi, spinaci dal latino spinacium. Tutti questo fenomeno non è un prestito dal greco, né dal greco in italiano, né dall'italiano in greco, è un prestito da terzi, nella fattispecie dal latino. Senti, storie, queste sono greche, greche. Andiamo, dai, sono greche. Sono buone. Come sono? Dì la verità. Sono greche. nella nostra Accademia d'Arte Grammatica, graditissimo ospite è ancora in questa prima puntata del 2014 Francesco Sabatini, presidente emerito dell'Accademia della Crusca, che risponde ai dubbi giunti in redazione o tramite la posta elettronica lalinguabatte@rai.it o tramite il nostro sempre vivacissimo gruppo Facebook, giunto ormai a oltre 5.000 partecipanti. Maria Carla ci chiede se sia corretto dire nei tempi più brevi possibili o si debba dire nei tempi più brevi possibile. No, gentile ascoltatrice, possibili qui è un aggettivo legato a tempi, che rafforza il brevi, perché basterebbe dire nei tempi più brevi, è un superlativo relativo che quindi indica i tempi veramente più brevi entro i quali bisogna fare qualcosa. Si può rafforzare quel brevi con possibili, ma allora bisogna concordarlo con tempi brevi. Evidentemente il dubbio però nasce dal fatto che abbiamo altre espressioni nelle quali ci vuole la forma singolare. Per esempio il prima possibile. Prima è un avverbio e allora avverbio in questo caso sostantivato con l'articolo il prima possibile. Oppure in un'espressione come quanto più possibile, che sottintenderebbe addirittura un verbo, quanto sia più possibile. In questo caso possibile deve essere al singolare per accordarsi con l'intera frase. Ma se noi diciamo nei tempi più brevi e vogliamo rafforzare questa brevità, dobbiamo dire nei tempi più brevi possibili. A meno dire brevi quanto più possibile. Giovanni ha colto un'altra imprecisione nella quale incorriamo un po' tutti. Che significa esattamente sto facendo una certa cosa? Tutti usiamo questa perifrasi per indicare, vorrei chiedere subito, che cosa? Che stiamo già eseguendo quell'attività, siamo già impegnati in quella faccenda o che ci accingiamo a? La usiamo molto spesso, impropriamente, per dire che sto per fare qualcosa. Allora, distinguiamo tra sto facendo la torta o sto per fare la torta, sto andando a casa di mio zio o sto per andare a casa di mio zio. Come mai usiamo un po' tutti la perifrasi con il gerundio? Poi spiegheremo meglio che valore hanno queste espressioni, queste perifrasi, perché è un modo un po', direi, quasi per imbrogliare l'ascoltatore, specialmente al telefono, come per dire guarda che mi sono già incamminato, sono per strada, quando poi in realtà sono ancora a casa, non sono ancora uscito di casa. Quindi è questo un modo per anticipare un po' la situazione successiva, renderla più impellente, più vincolante. C'è un pochino questa spinta. Allora distinguiamo tra il valore progressivo, di aspetto progressivo. Aspetto è una dimensione del significato dei verbi di cui a scuola non si parla quasi mai. Si parla di tempo, di modo, di persona, di numero, di genere, di passivo, di attivo. Fino a qualche anno fa le grammatiche non parlavano affatto dell'aspetto, che invece è un'altra dimensione del significato dei verbi e delle costruzioni verbali, molto importante, che nello studio delle altre lingue viene immediatamente indicata, precisata, classificata. Ma l'aspetto l'abbiamo in italiano in varie forme, c'è anche il modo di azione, eccetera. Beh, un discorso si allargherebbe un po' troppo. Quindi c'è un aspetto progressivo, sto andando, ci sono già dentro questa operazione e continuo a svolgerla. Dall'aspetto ingressivo, di inizio, di avvio, sto per andare. Ecco, sono due valori diversi e quindi addirittura poi dire, la sua domanda è cosa stiamo facendo domani? Beh, non ci siamo ancora domani, quindi è del tutto improprio questa anticipazione violenta della situazione del domani. E nemmeno l'ingressivo, cosa stiamo per fare domani, anche questo non va. Cosa faremo? Il futuro è così bello, così semplice, perché lo dobbiamo complicare con tutte queste perifrasi? Andiamo a vedere, andiamo a prendere, andiamo a fare. Prendiamo, facciamo al presente, faremo, prenderemo al futuro. Per primo hai consegnato? Ho consegnato prima. Ma è andato bene lo scritto di calcio. No, perché io non so, io sei preoccupata, fai capire, perché pensavo che il vocabolario, hai capito, le rocce, cioè che era rimasto in mezzo agli altri libri miei, dico adesso quello. Può essere, non sei rimasto là. Come può essere, scusa? Perché come può essere? Le rocce, dai. Boh, manco ho cercato stamattina, l'ho preso. Come non l'hai, non sei preso. Ma che hai fatto? La versione, silenzio un attimo, che hai fatto? Scusami, genio ce l'abbiamo. La versione, che te l'ha prestato qualcuno? Ma era greco disegnato, era fighissimo, c'è stato tutto, capito, con tutti i tavolini quelli che mi hai insegnato te. C'è stato il greco, il greco, c'è stava tutta tipo agenda, sai, tutti target, tipo target delle macchine, c'è stato tutto. Quest'anno molte Ipsi, molte X c'è stato. È tutto disegnato, poi ci sono molte X, molte Ipsi, tipo agenda de, no, sai i target straniere delle macchine, X, 2, 4, 5 Ipsi, tutto. Tutto nella versione di greco. Ma figo, tutto messo poi a. Volevo fare live la lingua a parte. Pronti? Yes. Non tornerò mai più sulle orme, scarpe nel fango non mi fanno correre, non tornerò mai più sulle orme, me le ricordo già bene così. Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Erika Musci, in arte Erika Mu, ha poco più di 20 anni, ma ha già un curriculum abbastanza impressionante, dalla partecipazione nel 2010 alla leva cantautorale degli anni zero, l'antologia di Esordienti curata dal Club Tenco, al premio della critica a Sanremo 2012, fino al suo ultimo singolo Dove cadono i fulmini, che è stato scelto da Rocco Papaleo per la colonna sonora del film Una piccola impresa meridionale. Ecco, Erika, cominciamo dal tuo nome d'arte, Erika Mu. Pensavi a Toffì di Vasco Rossi, anche se non eri ancora nata quando lui l'ha incisa? Beh, proprio a Vasco no, però al Toffì ci pensavo. Ovviamente Mu, cioè come ragione primaria, è il fatto di essere metà del mio cognome, quindi era, cioè io ci tengo comunque molto all'identità, ecco, quindi non era un modo per nascondere, era un modo per rendere un po' più fruibile, anche perché io ho questa orribile pronuncia delle consonanti SC che mi portano a dire Erika Mussi e tutti non capiscono come mi chiamo, pensano Mussi o Mucci, quindi insomma era tagliare la testa al toro, tagliare il nome. E poi un po' le caramelle ci danno quel senso di dolcezza, ma anche di appiccicume. Che non risolve ma aiuta, come diceva una pubblicità aiuta. Tanto tempo fa, la dolcezza, non l'appiccicume. L'appiccicume ti aiuta a ricordare che ci sei. Voglio diventare vecchia, cantavi nel brano che hai portato a Sanremo, coi ricordi tutti intatti e con le rughe tatuate. Poi, per fortuna, aggiungevi, alla fine, se non sbaglio, voglio diventare vecchia senza fretta. Il titolo è Nella vasca da bagno del e tempo. Insieme a te, soprattutto. Voglio sapere come ti è venuta, vorrei sapere come ti è venuta in mente questa metafora strana, direi molto originale, della vasca da bagno del tempo. Guarda, un po' è il fatto che comunque io sono una patita del bagno, nel senso proprio del, credo che sia, insomma, proprio la vasca mi ha sempre dato quel premio, sai, quando non sei di corsa, allora è il tempo di prenderti un attimo per te e di pensare. Io ascolto anche molta musica mentre mi faccio il bagno, uno dei momenti, diciamo, io mi premio così, facendomi il bagno. E poi, insomma, mi è venuta perché appunto mi sono guardata le dita una volta che ero, diciamo, quando sei a mollo dopo tanto tempo, è un po' i segni dell'acqua, sono i segni del tempo che passa, della vecchiaia, no? Di queste mani che cambiano. E quindi ho cominciato a pensare al corpo, a come cambia e al fatto che, insomma, mi riterrei molto fortunata se accadesse anche a me, insomma, di poter vivere un cambiamento così importante, quindi di poter vivere tanto. Una metafora come la vasca da bagno del tempo, ma anche le similitudini dei tuoi testi non ci scherzano. È come quando vuoi mangiare ma non dovresti farlo e fissi il piatto di chi sta accanto e attendi un invito ad assaggiarne un po'. Nelle tue canzoni si dice sempre una cosa in realtà per parlare d'altro? Beh, effettivamente sì. Non perché a me non piaccia essere diretta, anzi penso, cioè nella vita lo sono anche troppo certe volte, però è perché mi piace il fatto di poter parlare di qualcosa che io veramente conosco e conosco questa sensazione, cioè conosco benissimo cosa succede quando non dovresti mangiare. Questa canzone parla di un grande amore, però sai, è difficile dire quello che, soprattutto nei grandi sentimenti, sono i dettagli, credo che ti scuotono. Oltre ai dettagli c'è anche un gioco sui vari significati delle parole, cioè spesso un'immagine evoca in realtà un significato, potrei dire, diffratto, visto che è proprio di acqua che stiamo parlando ancora una volta, perché il mare torna spesso nelle canzoni di Erika Mu. Amore, mettiti la maschera. Sembra di sentire parlare di qualcuno che si vuole nascondere e invece la maschera serve per andare in spiaggia a vedere bene il fondo, come abbiamo fatto in questi anni. E qui sembra l'idea invece di un'esperienza negativa, questo vedere o toccare il fondo. Beh, è negativa fino a un certo punto, nel senso che il fondo c'è, esiste, quindi non è che se non lo tocchi non c'è, il fondo c'è, la canzone è proprio una specie di bilancio di coppia. Amore mio, qua ci dicono che stiamo andando veramente male, che va tutto a rotoli, che il nostro futuro non ce lo stanno togliendo. E allora che cosa possiamo fare? Tu dici che ce ne dobbiamo andare, io invece dico andiamolo a vedere anche noi questo fondo. Mettiti la maschera e poi ce ne andiamo in spiaggia a vedere bene il fondo. Come abbiamo fatto in questi anni, amore, mettiti la maschera e poi ce ne andiamo in spiaggia a vedere bene il fondo. Come abbiamo fatto in questi anni, na na na na na na. Come fai, come fai, na na na na na na, a respirare. C'è una battuta famosa di Woody Allen che dice: ho fatto un corso di lettura veloce, ho letto Guerra e Pace in un'ora, parla della Russia. Mi è venuta in mente perché c'è una canzone di Erika Mu che si intitola Romanzo storico, però è fatta di quattro frasi, cinque, non l'ho contate. Di che cosa parla Erika Mu? Romanzo storico è veramente una canzone con un testo brevissimo. Io in questo nuovo disco, Incontro le onde, in realtà ho cercato un po' di asciugarmi. perché ero trabordante anche di parole e sentivo che spesso non arrivava il significato poi di tutte. E questa canzone, il romanzo storico, non è assolutamente un romanzo, è un leggerissimo incipit. Poi il romanzo lo deve scrivere qualcun altro. È una canzone che parla di una storia d'amore che io vorrei rimanesse nel tempo, insomma. E quindi tanto bella che ci potrebbero scrivere un libro. O una canzone. Vorrei che scrivessero un libro su noi, sulla tua speranza biblica, sulla mia pazienza anoressica. Vissero a cavallo fra due secoli, guardarono il mondo che se ne va. Vissero a cavallo fra due secoli, guardando il mondo che se ne va. Ma preferirono pensare che potesse durare per sempre. Ma preferirono pensare che potesse durare per sempre. E questo è tutto. Più un'ultima frase. A cavallo fra due secoli, al galoppo via da qua. E questo era il romanzo storico. Nell'album precedente, Erika, c'era una canzone che si intitolava addirittura Epica. Sì. A parte il gioco di parole con il nome, non so se fosse voluto anche questo. Leggermente voluto. C'entra il fatto che eri o sei iscritta a Lettere e Filosofia, l'idea, insomma, di rendere viva una materia che si è studiata e magari amata? Sì, c'entra. Cioè, non è proprio un omaggio in realtà, perché alla fine, insomma, la cosa bella di studiare, almeno per me, è stato comunque il fatto che veramente quello che è, cioè sposti il tuo cervello verso qualcosa che è veramente altro da te, no? E allora ti rimane molto più impresso, perché c'è sempre il fascino per qualcosa di diverso. Infatti a me piacerebbe, insomma, ricominciare a studiare, perché poi dall'uscita di è stato molto difficile, proprio perché soprattutto con la musica credi che il mondo sia tutto lì, cioè credi che il mondo sia tutto fatto di andiamo alla RAI a fare l'intervista, scriviamo la canzone, oddio non arrivo al fa diesis, cioè credi che sia tutto così, e invece no. E in Epica io stavo studiando l'esame di letteratura greca, anche, anzi di cultura letteraria della Grecia antica, e stavo, insomma, pensando ad Achille, ho pensato a tutte le differenze che fra me e lui ci sono. Una però riguarda il tallone, se non mi ricordo. E una male. Riguarda il tallone e principalmente riguarda le nostre madri, perché io sono convinta che se mia madre fosse stata una dea e avesse voluto rendermi invincibile, non mi avrebbe mai immerso nel fiume tenendomi per i piedi, ma sicuramente avrebbe dimenticato di bagnare un'altra parte di me, e questa parte di me, come penso per la maggior parte delle donne, è il cuore, la parte che, insomma, resta sempre più fragile e più vulnerabile, grazie al cielo. Metti che fosse stato il piede, che tristezza! Sarebbe stato meno romantico, sicuramente. Però fa più male. Vulnerabile, non sono andato a controllare perché non ho fatto in tempo in diretta, potrebbe essere una di quelle parole che alcuni dizionari dicono in via di estinzione, una parola che ha comunque un'aura di letterarietà, una di quelle parole che si sentono sempre meno. Sono parole che tu, Erika, ami molto mettere anche nei tuoi testi, al punto che ne era nata un'idea lessicografica. Sì, quasi, insomma, a me piacerebbe, insomma, sviluppare un progetto di un po' di recupero, se vuoi, di salvataggio, di pandismo. Vorrei appunto salvare nel senso del WWF, vorrei appunto altro che coniare nuove parole come pandismo, che adesso avremo perso metà degli ascoltatori, ma proprio recuperare certe parole che sono belle, che ci fanno parte di noi e che usiamo un po' meno per pigrizia. E Epica è una canzone piena, cioè da vulnerabile, che insomma non è neanche tanto rara, c'ha poi lo stigio delle mie paure grigie. Non credo sia il tallone la parte più debole di me, non credo sia il tallone la più vulnerabile, che spesso sporco e ruvido è talmente attaccato al suolo come le mie parole, che non volano. Tira pure scariche di frecce sui miei piedi, tira pure scariche di frecce sui miei piedi, poi non così veloci. Mia madre, per immergermi nel fiume, mi tenne per il cuore, lasciò asciutto solo, solo il mio cuore. L'ira funesta non mi ha portato in guerra, ma solo a una finestra, a pensare che mia madre, per immergermi nel fiume, mi tenne per il cuore, lasciò asciutto solo, solo il mio cuore. Sarebbe stato meglio annegare nello Stige, tira pure, sarebbe stato meglio annegare nello Stige delle mie paure grigie, sarebbe stato meglio annegare nello Stige delle mie paure grigie, sarebbe stato meglio annegare nello Stige delle mie paure grigie, sarebbe stato meglio annegare nello Stige delle mie paure grigie. E così sei greca allora, eh? E come fai di cognome? Portokalos. In greco significa arancio. Come il frutto che si mangia, quello con la buccia, non il colore. Ah, oh. Sì, è molto greco. La parola della settimana è icona. Una parola come icona rende molto bene quella straordinaria vitalità che i grecismi continuano ad avere nell'italiano di oggi. Prendiamo ad esempio una traduzione di un'intervista all'artista Roy Lichtenstein pubblicata nel 1993 dall'Espresso. Diceva Lichtenstein a un certo punto: «Madonna è senz'altro un'icona pop, anzi con le sue provocazioni ma soprattutto con precisi elementi di stile ne ha addirittura modificato i contorni». È arte? Si chiedeva Lichtenstein. Non ne ho la più pallida idea, ma Madonna mi diverte. Ecco, è un passo in cui, anche grazie a quel cortocircuito tra il nome d'arte Madonna e il ricordo delle icone sacre, si incontrano in tutti i sensi, anche proprio nel senso che si incrociano tra di loro molti dei significati che la parola icona ha assunto in italiano. In italiano, ma non solo. In casi come questo, di là dalla forma che poi la parola ha assunto nelle singole lingue, si potrebbe parlare neanche più di europeismi, come faceva Leopardi, ma forse di globalismi. Però andiamo per ordine. L'italiano icona viene dal greco bizantino eikona, a sua volta dal greco classico icon e iconos, immagine, ed è già attestato nel latino tardo e medievale con la stessa forma, icona, appunto, che si trova già alla fine del 200 nel latino medievale, nella cronica di Fra Salimbene da Parma. Il primo significato con cui la parola appare in italiano nella seconda metà del Cinquecento è quello che si riferisce alle immagini sacre dipinte su tavolette di legno, su lastre di metallo, immagini tipiche proprio dell'arte bizantina e poi in seguito di quella russa, non a caso icona, è anche parola russa. Immagini, ovvero tavole, come icone d'altari e cose simili, scrive nel 1589 Bernardino Baldi, traducendo dal greco un libro che parla degli automati, ovvero macchine semoventi. Nonostante questa origine dotta, icona dovette però avere, e proprio grazie alla popolarità del culto dei santi, una circolazione molto più larga, come testimoniano alcuni nomi di luogo diffusi un po' in tutta Italia, ad esempio Cona. Accanto alla storia popolare della parola, ce n'è però una intellettuale, una documentata anche per via letteraria, in cui icona prende dapprima il significato più generico di immagine sacra. Tra le immagini dei miei maggiori, una mi è sopra tutte le altre carissima e sacra come un'icona votiva. Questo era D'Annunzio. Poi prende il significato ancora più generico di effigie, ritratto. La vita che t'affabula è ancora troppo breve se ti contiene. Schiude la tua icona il fondo luminoso. Fuori piove. Così Montale in una delle poesie delle occasioni. Anche iconoclasta, dal significato originario di seguace dell'iconoclastia, quindi distruttore di immagini sacre, passa nell'Ottocento a un significato più esteso, estensivo, quello di contrario alle opinioni e ai valori dominanti. Affermava ad esempio Carducci: gli iconoclasti romantici hanno il torto di recare la schifilità loro dove non è il luogo. Ma è nel Novecento che, in seguito a stimoli partiti sempre dalla lingua inglese, la parola ha conosciuto una storia del tutto nuova e una fortuna, una diffusione straordinaria, come si diceva, non solo in Italia. Dapprima nell'ambito tecnico della semiologia, in cui, traducendo la terminologia di Charles Sanders Peirce, un segno iconico è quello che, detta in maniera molto semplice, presenta qualche similitudine con l'oggetto che indica. L'aggettivo iconico si trova già nel 1949 nella traduzione di un saggio di Morris, un altro linguista americano. Un segno è iconico nella misura in cui esso stesso ha le proprietà dei suoi denotati. Poi la diffusione continua in ambito informatico. Dal 1984, con la diffusione del sistema operativo Macintosh, Do You Remember Steve Jobs?, si comincia a chiamare icona l'immagine stilizzata che corrisponde a una determinata funzione del nostro PC. E proprio in quegli stessi anni comincia a diffondersi in ambito mediatico l'uso di icona nel senso di figura rappresentativa di un periodo, di una generazione. Scrive Arrigo Benedetti in un articolo apparso nel settimanale L'Europeo nel 1988. C'era una volta la pop art, quella vera dei padri fondatori, dei maestri storici americani come Roy Lichtenstein, John Chamberlain, Robert Rauschenberg e naturalmente di Andy Warhol, icone degli anni 60. Icona, insomma, come parola simbolo, grecismo. Una sorta di emblema, grecismo, quasi il marchio della nostra epoca, grecismo, anzi il suo logo, abbreviazione di logotipo, a sua volta da logos, parola, discorso, pensiero, grecismo. Perché nell'italiano di oggi fare a meno dei grecismi è davvero impossibile. No logo, no parli. Siamo arrivati così anche oggi al momento dei saluti. A salutarvi ci sono io, Giuseppe Antonelli, e con me ci sono la curatrice Cristina Faloci e la regista Francesca Zammarelli. Scaricateci anche quest'anno, anche nel 2014, scaricateci se volete dai podcast che sono sul sito di Radio 3 o che potete trovare anche tramite iTunes. L'appuntamento con noi resta sempre lo stesso, sabato prossimo alle 2 del pomeriggio, quando la lingua batte su Radio 3. Ma la passione è un'altra grammatica. Sembrare etica, laico sarò e studierò la maniera di fare politica senza toccare la tua etica, bella mia, talmente bella da fare un'estetica. L'arte farò e studierò la maniera di fare l'erotico senza guastare la tua estetica. passione un'altra grammatica. Ma la passione è un'altra grammatica.